Sì, direi che quello Cividelli poi diventa una ormai un luogo comune, cioè non vorrei inserire su un piccolo aspetto della categoria, il problema dei bidelli non è la quantità, è che nella scuola, vale per i bidelli ma vale per gli insegnanti, c'è stato un patto perverso da decenni. Cioè, io ti assumo, ti pago poco, ma non ti chiedo niente. Dobbiamo rompere questo patto. Nella scuola ci voglio la professionalità impegnata a tempo pieno e che mi garantiscano la qualità del servizio scolastico a tutti i livelli. Ecco, perché non si riesce a fare? Lei individua due o tre problemi. Uno, intanto, è che la scuola è sempre terreno di scontro politico e questo porta all'immobilità. L'abbiamo visto da tanto tempo. È una questione ideologica ormai più che politica. E questo è grave perché la riforma della scuola non può essere fatta in 3 anni. Come si può fare se non si trova un accordo di condivisione almeno sui principi di fondo, come quando si parla della Costituzione, della giustizia? Quindi a prescindere dal governo che c'è in quel momento, ci vorrebbe un accordo che poi superasse. Io dico a prescindere perché sono convinto che ci siano su molte cose ci sono delle differenze evitabili, ma su molte cose ci sono anche delle meno differenze di quello che si ritiene in politica. Anche tra la riforma Berlinguer e la riforma Moratti, che sono state bocciate entrambe poi dal governo successivo, c'erano molti punti comuni, si potrebbe anche ripartire da lì. Ed ora parliamo un po' di noi, edizioni Il Sole 24 Ore, Campus all'Italiana. È la storia di una delle università più prestigiose del nostro paese, il Politecnico di Torino. A firmarlo una nostra vecchia conoscenza, il nostro corrispondente Marco Ferrando, che ci spiega come la storia del Politecnico abbia accompagnato l'intera storia di una città, Torino. Sì, il Politecnico di Torino di fatto negli ultimi 20 anni, che sono stati anche gli anni della crisi dell'auto e ovviamente della crisi di Fiat, ha saputo proporre un modello di sviluppo nuovo, uno sviluppo nuovo essenzialmente centrato sul tema dell'innovazione e della ricerca, temi che da sempre sono nel DNA di Torino, insomma di tutto il Piemonte, ma che la crisi di fatto rischiava di appannare. Costruendo la cittadella politecnica, che è questa formula di campus in parte ispirata, facendo naturalmente dovute distinzioni a modelli americani, californiani, il Politecnico ha costruito un contenitore nel quale ci sono le competenze dell'università, c'è la formazione, ma ci sono anche i centri di ricerca delle imprese e le imprese stesse, la più importante delle quali è General Motors, quindi una presenza sicuramente importante. Così facendo, con questo esperimento della cittadella politecnica che è ancora in costruzione, quindi che è ancora in parte da completare, ha dimostrato che l'economia della conoscenza, che mette la conoscenza al centro e che cerca di costruire business dalla conoscenza, è un modello che rende, che funziona e che può quindi anche ispirare una direzione nuova a tutto un territorio. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.